Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, e siamo anche in diretta sulla pagina Facebook di Radio 24, se volete vederci anche in video. Di che cosa parleremo oggi? Innanzitutto, come promesso ieri, ve l'abbiamo detto, che saremo tornati sulla vicenda Fincantieri, perché è previsto tra poco, dovrebbe iniziare tra una ventina di minuti o poco più, l'incontro tra il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, quello dello sviluppo economico Carlo Calenda e il ministro dell'economia francese Le Maire. Si dovranno incontrare e cercare di sciogliere qualche nodo. Il punto, lo ricordiamo ancora una volta, il fatto che Fincantieri voleva acquisire i cantieri Saint-Nazaire, il governo francese si è messo di mezzo, ha prospettato una nazionalizzazione e oggi nei giorni scorsi il governo francese ha tentato di metterci una pezza. L'idea con la quale presumibilmente il ministro francese si presenterà oggi davanti ai colleghi italiani è un patto tra azionisti al 50-50, quindi appunto 50% francesi e 50% italiani, con una guida completamente italiana. Anche se le dichiarazioni delle scorse ore dei ministri italiani invece sono state un po' più nette, vi abbiamo riferito di ieri di quella del ministro della difesa Roberta Pinotti, la quale ha detto non arretreremo di un millimetro. Tutto questo ovviamente lo possiamo prendere come delle prese di posizione nette, perché effettivamente lo sono, ma dall'altra parte possono essere anche e semplicemente degli elementi di trattativa. Come sempre quando si va ad una trattativa si cerca di alzare la tensione prima, di arrivare con una proposta sul tavolo un po' più forte per poi giungere ad un compromesso. Sul tavolo, come già abbiamo raccontato ieri, c'è molto di più, perché c'è ancora una volta il tema di quanto la Francia rispetti o voglia rispettare, se non strettamente le normative europee, quantomeno lo spirito delle normative europee in termini di mercato unico, e più in generale fino a che punto l'europeismo di Macron, tanto gridato in campagna elettorale, non si fa frenare dal un nazionalismo abbastanza tipico francese sulle vicende economiche, sulle vicende aziendali francesi. E cercheremo di darvi un aggiornamento. Ovviamente i lavori saranno in corso nel momento nel quale andiamo in onda. Vi ricordiamo che la puntata di oggi di Focus Economia, così come tutte le puntate di agosto, durerà un'ora, e quindi vi diremo quello che vi potremo dire al momento. Cercheremo di fare un punto della situazione. Ci occuperemo dell'Agenzia delle Entrate. Come anticipato il Sole 24 Ore oggi in edicola, il Sole 24 Ore ha anticipato gli obiettivi dell'Agenzia delle Entrate fissati nella convenzione che viene firmata oggi con il Ministero dell'Economia. Si punta a recuperare 15,7 miliardi di euro, con un contributo importante dalla rottamazione delle cartelle, però ovviamente si parla anche di recupero dell'evasione. Sullo sfondo di questa vicenda della firma dell'accordo con il Ministero c'è tutta una questione, anche qua una questione che resta aperta, che è una questione se volete più legale ma non meno importante, ossia il tema di chi riscuoterà queste tasse. Per intenderci, abbiamo assistito alla fine, almeno presunta, almeno teorica, di Equitalia. Su questa vicenda pende una questione legale importante. È una questione che ci può sembrare di lana caprina, ma che potrebbe fermare tutto, perché la questione qual è? La questione è che Equitalia è un ente di diritto privato, per quanto ovviamente di proprietà dello Stato. I dipendenti di Equitalia vengono portati in quello che è un ente pubblico, E che cosa succede? Che per entrare in una struttura pubblica bisogna passare da un concorso e quindi questi dipendenti di Equitalia sembrano un po' a rischio. Su tutto questo pende un ricorso presso le autorità amministrative, in tipica presso i tribunali amministrativi, in tipica tradizione italiana, TAR e Consiglio di Stato. E vediamo che cosa succede. E poi, ieri abbiamo saltato il giro perché molto se ne è occupato Giampaolo Musumeci, molto ce ne siamo occupati nei GR. Oggi torneremo sul tema del Venezuela. Venezuela, lo sappiamo, è praticamente sull'orlo di una guerra civile. Oggi sono stati incarcerati due tra i principali oppositori di Maduro, tra chi follemente anche in Italia parla di un complotto americano per distruggere il chavismo e chi invece più seriamente si preoccupa per la situazione della democrazia in Venezuela. Il presidente del Consiglio Gentiloni ha detto abbastanza chiaramente che i segnali che sembrano arrivare sono quelli dell'avvicinarsi di una dittatura, mentre apprendiamo, anche se insomma le notizie ormai circolano da qualche tempo su questo tema, ma oggi il Sole 24 Ore mette in piedi un riassunto su tutto questo, ne parleremo con Roberto Darin che se ne è occupato, che Goldman Sachs sta comprando ormai da mesi, e non è solamente Goldman Sachs, titoli venezuelani, perché evidentemente spera in qualche modo che la situazione migliori e quindi sta scommettendo sul Venezuela. Però contemporaneamente, nello scommettere sul Venezuela, dà una bella mano a Maduro. I mercati oggi sono positivi, più 0,46% per il FTSE MIB, più 0,44% per il FTSE All Share. Meglio fanno le altre piazze finanziarie europee, con Parigi che guadagna lo 0,81%, Francoforte l'1,22%, niente di cui stupirsi se si considera che ieri alcune delle borse europee erano in negativo, mentre Milano era in positivo. Tra i titoli migliori troviamo Ferrari che guadagna un 4,15%, Italgas l'1,72%, Buzzi Unicem l'1,5%, Snam l'1,45%, Terna l'1,41%, Xor l'1,38%, in fondo a listino Ferragamo che cede l'1,71%, Tenaris l'1,5%, Bibanca l'1,3%, Jux Net-a-Porter l'1,04%, ma ieri aveva corso parecchio, Moncler che perde lo 0,97%, Unipol lo 0,91%, Intesa San Paolo lo 0,82%. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, la pagina Facebook di Radio 24, dalla quale andiamo anche in diretta video, e se volete potete anche scrivere là e commentare, perché anche quei messaggi leggiamo. Le notizie in breve di oggi. Le materie prime in primo piano come sempre e in apertura, l'oro che guadagna lo 0,4%, $1,271 l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, abbiamo il Brent a $52,6 al barile, il WTI a $49,6. Valori molto simili a quelli di ieri, in lieve calo a dire il vero, giù dell'1% per quanto riguarda il WTI. Dagli Stati Uniti le notizie che Donald Trump tra pochissimo dovrebbe firmare il progetto di legge per rafforzare le sanzioni americane nei confronti della Russia, lo ha annunciato il vicepresidente americano Mike Pence ai giornalisti. In mattinata, in giornata, si era diffusa la notizia che Trump avesse già firmato, la firma arriverà comunque tra poco, insomma poco cambia, la notizia è comunque destinata a innalzare la tensione diplomatica tra i due paesi. Come ricorderete e come saprete se avete seguito le notizie del fine settimana, anche il presidente russo Putin ha annunciato l'espulsione di una serie di diplomatici americani o quantomeno di personale americano sul territorio. E a proposito di sanzioni, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni al presidente del Venezuela, Nicolás Maduro. Si vanno ad aggiungere alla già lunga lista degli esponenti del governo venezuelano finiti nel mirino delle autorità americane. L'amministrazione Trump ha congelato gli asset sotto la giurisdizione americana e vietato agli americani di fare affari con lui. Quindi in questo caso sanzioni non al paese, ma sanzioni personali nei confronti del presidente Maduro. Per quanto riguarda la stretta cronaca dal Venezuela, beh, i numeri ormai li conoscete, ve li abbiamo raccontati anche in GR24, sono 121 i morti nella repressione da aprile, 14 solo ieri nel giorno del voto, si erano anche diffuse delle indiscrezioni, delle notizie secondo le quali sarebbe morta anche una quindicenne negli scontri, ancora non confermate, paese allo stremo, 31 milioni di venezuelani sono alle prese da mesi con scarsità di cibo e medicinali. L'inflazione viaggia intorno al 700%, 700%. La spirale è una spirale discendente, e ve lo abbiamo raccontato anche questo in passato, innescata dal calo delle quotazioni petrolifere da cui derivano oltre il 90% degli introiti del paese, ma ci sono altri paesi che reggono perché riescono a cautelarsi in qualche modo dal calo delle quotazioni petrolifere. Per esempio, lo abbiamo raccontato in passato, creando dei fondi sovrani, investendo in altri asset nei momenti nei quali il petrolio va bene, in maniera da poter reggere nel momento nel quale il petrolio va male. Il Venezuela questo non l'ha fatto e ne sta patendo e soffrendo le conseguenze. Dell'arresto dei due leader dell'opposizione abbiamo parlato, delle dichiarazioni di Gentiloni che dice l'arresto dei leader dell'opposizione è inaccettabile, e poi andremo all'approfondimento appunto nel corso della trasmissione. Ci sono... c'è l'analisi, le anticipazioni del bollettino economico in pubblicazione da parte della Banca Centrale Europea, anticipazioni nelle quali la BCE insiste con i paesi dell'Eurozona perché attuino delle politiche favorevoli alla crescita, e per favorevoli alla crescita intende tassare meno il lavoro, ridurre il cuneo fiscale e spostare le fonti di entrate sul versante dei consumi con l'IVA e la proprietà e la tassazione della proprietà immobiliare. Niente di nuovo sotto il sole, la Banca Centrale Europea, così come altri enti internazionali a partire dall'OCSE, passando per il Fondo Monetario Internazionale, ripetono questo mantra da anni. E finora sotto questo aspetto si è fatto molto poco. Del resto, anche sulla questione dell'innalzamento dell'IVA c'è qualche preoccupazione, forse corretta, da parte dei commercianti, e dall'altra parte è una misura estremamente impopolare, cioè un taglio del reddito personale si vede molto meno, a meno che non sia estremamente consistente, rispetto all'aumento dell'IVA, e in cabina elettorale pesa, Dopo Brexit sono arrivate le candidature per ospitare l'Agenzia del Farmaco Europea e l'Autorità Bancaria Europea. Quella che interessa a noi è la prima, e però i concorrenti sono molti di più. 19 offerte per l'EMA, tra cui quella di Milano, e 8 per l'EBA, per l'Autorità Bancaria Europea. Per quanto abbia ricevuto, e per quanto conti ovviamente, la candidatura di Milano, un endorsement, come si dice, importante, un sostegno importante, quello di un autorevole rivista, Lancet, che dice che l'Italia è in pole position per l'Agenzia del Farmaco in gara con la Slovacchia, ma il nostro paese ha meriti etici e medici, dice Lancet, e quindi lo meriteremmo noi. Chissà se anche questo entrerà nelle valutazioni della commissione o sarà anche o molto semplicemente un gioco di equilibri politici, come spesso avviene. Infine, un po' di notizie che riguardano i nostri conti pubblici. Il blocco della contrattazione e le altre misure di spending review hanno tagliato la spesa per il personale della pubblica amministrazione di oltre 12 miliardi di euro nel giro di 6 anni, quindi più di 2 miliardi all'anno in media, certifica la Ragioneria Generale dello Stato nell'annuario statistico. Nel 2015 rispetto al 2009, appunto, sono stati spesi per il pubblico impiego circa 12,6 miliardi in meno. Del piano dell'Agenzia delle Entrate per recuperare 15,7 miliardi abbiamo parlato. Infine una piccola nota sull'ATAC, della quale abbiamo diffusamente parlato ieri. Ha parlato l'assessore ai trasporti Linda Meleo di Roma. Il consiglio d'amministrazione ha compito di risanare l'azienda, di rilanciarla, di mantenerla pubblica, dice Meleo. La manterremo pubblica e tuteleremo le persone che lavorano tutti i giorni. Chissà che cosa dice di quelle che non lavorano tutti i giorni, che nell'ATAC sono un discreto numero, e che colgo l'occasione di ringraziare. L'obiettivo è fare il prima possibile per riportare l'ATAC alla normalità. Non sarà per nulla facile. E il consiglio d'amministrazione dice valuterà sul concordato preventivo. Veniamo al primo tema di questa giornata, Fincantieri. Dico all'ascoltatrice, credo, che ci scrive sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook di Radio 24, dalla quale andiamo in diretta, che la crisi venezuelana è tutta colpa del neoliberismo. Non l'ha ancora detto nessuno? Sì, se non sbaglio Paolo Ferrero, più o meno, insomma, una cosa di questo genere, un complotto americano ed è colpa del neoliberismo, un super classico. Veniamo a Fincantieri perché tra 7 minuti più o meno, se saranno rispettati i tempi, ci sarà un vertice tra i ministri italiani Piercarlo Padoan, Carlo Calenda, il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire, sulla questione appunto di Fincantieri, per l'acquisizione dei cantieri Saint-Nazaire. Come sappiamo, Fincantieri ha presentato un'offerta, lo Stato francese si è messo di mezzo. Siamo in linea con Celestina Dominelli del Sole 24 Ore. Celestina, ciao, buonasera. Ciao, buonasera a te e buonasera ai radioascoltatori. Allora, che cosa sappiamo a questo punto? Che cosa sta portando sul piatto di questo incontro il governo francese e da quel che sappiamo che cosa intende rispondere il governo italiano? Allora, quello che il governo francese vuole portare sul piatto era emerso in qualche modo nei giorni scorsi, e stamattina Bruno Le Maire, in un'intervista, il ministro appunto incaricato dall'Eliseo di portare avanti la trattativa, l'ha messo, diciamo, ben in chiaro, e sottolineando sostanzialmente che arriverà al tavolo di questo confronto proponendo a Fincantieri un assetto paritario nel capitale di STX France, e concedendo comunque al gruppo triestino la guida di quei cantieri a fronte di maggiori garanzie sui livelli occupazionali e sul possibile trasferimento del know-how. E poi il vero asso che lui calerà oggi, ma insomma in qualche modo era già emerso nei giorni scorsi, è la possibilità di una collaborazione nel militare. E ovviamente dovremo aspettare l'incontro per capire come andrà questa partita, però una prima risposta sulla base di quanto detto a Le Maire in questa intervista è arrivato dal nostro ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che ha ribadito le posizioni dell'Italia. Ha detto, insomma, che non c'è motivo per cui Fincantieri non debba detenere la maggioranza. Questo era previsto dagli accordi che erano stati sottoscritti sotto la presidenza Hollande e che Macron ha rimesso in discussione, che l'Italia, dice Padoan, ha già dato alla Francia tutte le garanzie necessarie rispetto ai temi sollevati dalle Mer sul fronte occupazionale e sul fronte delle tecnologie. Ciò premesso, dice Padoan, ovviamente noi siamo qui, riceveremo insomma il ministro Le Maire, ascolteremo e proveremo a capire se c'è la possibilità di far progredire questo negoziato. Tra l'altro, Celestina, immagino che sullo sfondo ci sia anche una riflessione su quello che impongono da questo punto di vista le regole europee, intendo da parte dei francesi, cioè immagino che ci sia una certa volontà di arrivare ad un accordo, anche perché non è detto che l'operazione tentata da Macron possa passare a livello europeo. Ma su questo fronte non c'è moltissimissima chiarezza, nel senso che Bruxelles nei giorni scorsi, quando appunto in qualche modo qualche giornale aveva paventato il rischio di una procedura di infrazione a carico di francesi per presunti aiuti di Stato, Bruxelles si è affrettata a dire: attenzione, non c'è nessun dossier, non abbiamo, come dire, aperto nessun tipo di percorso per arrivare a sanzionare i francesi, anche perché loro esercitano un diritto di prelazione che è previsto da un accordo parasociale, quindi è sostanzialmente legato a un contratto sottoscritto dai francesi con quelli che erano i vecchi proprietari dei cantieri di Estex France. Quindi Bruxelles per il momento non ha acceso alcun faro, per cui l'eventuale, come dire, sviluppo sotto quella versante è ancora tutto da chiarire. Vero è che c'è sicuramente per i francesi un riverbero dal punto di vista reputazionale e dal punto di vista che Macron, che era sembrato a tutti, come dire, uno spirito liberista, insomma, a favore, diciamo, della libera concorrenza, almeno così si era dimostrato in campagna elettorale, evidentemente manda con questa nazionalizzazione temporanea che poi ha messo in campo un messaggio sicuramente diverso da quello che c'era sembrato, insomma, il presidente francese all'inizio, diciamo, del suo mandato presidenziale. Sì, perché poi, come si diceva anche in apertura, Celestina, un conto è rispettare la lettera dei trattati europei, un conto è rispettarne lo spirito, cioè come dire, certamente un'operazione di questo genere non è un bel segnale da parte di un uomo sul quale si erano riversate molte aspettative da parte di una serie di paesi europei, no? Sì, non lo è sia in termini appunto di aspettative, come dicevi bene tu, non lo è anche rispetto a piani che l'Europa sta perseguendo in questo momento. Lo ricordava nei giorni scorsi sul Sole 24 Ore anche Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, e a fine marzo, quando appunto a Roma si sono ritrovati per, diciamo, come dire, celebrare insomma l'anniversario dei trattati di Roma, anche i francesi hanno firmato in calce a, come dire, la messa, diciamo, nero su bianco della volontà, diciamo, del vecchio continente di procedere speditamente sul tema della difesa unica. Quindi i francesi avevano aderito e hanno aderito, insomma, a questo progetto, diciamo, molto ampio, per cui anche rispetto a questo che è un obiettivo che l'Europa, insomma, vuole perseguire, certo la scelta dei francesi è un po' contraddittoria e sicuramente, come dire, è stata stigmatizzata moltissimo, anche perché nel momento in cui si tenta in qualche modo un'integrazione per ovviamente salvaguardare interessi più alti che vanno al di là di quelli che sono, diciamo, come dire, di quelle che sono, insomma, le beghe domestiche. Certo, la decisione di Macron di nazionalizzare, seppur in via temporanea, i cantieri di Saint-Nazaire non è stata, diciamo, particolarmente compresa, insomma, e ha spiazzato molti. Io ti ringrazio, grazie a Celestina Dominelli del Sole 24 Ore per questo aggiornamento, per questo punto, per questi spunti e per questa analisi. Incontro che dovrebbe iniziare a minuti e sicuramente vi sapremo aggiornare sui dettagli di questo incontro. Non sappiamo nemmeno, perché qualche ascoltatore dice, beh, insomma, la dico anche se siamo in fascia protetta, dice, conosciamo i nostri politici, sarà una ferma decisione presa a 90 gradi. Questo sinceramente non lo possiamo sapere, magari si cerca di raggiungere un compromesso da questo punto di vista perché lo si ritiene strategico. Attenzione, il rimanere, giudizio personalissimo, il rimanere fermi sulle proprie posizioni a tutti i costi, rischiando di perdere magari un affare o qualcosa di importante, non è sempre una strategia corretta. A volte è meglio venirsi incontro. Sarebbe questa l'arte della politica, che è un'arte del compromesso per definizione. Di questa vicenda ha parlato questa mattina anche ospite della nostra Elisabetta Fiorito in Ma cos'è quest'estate, il ministro del lavoro Poletti. Possiamo sentirlo. Noi siamo per tutelare la correttezza dei rapporti. Ci sono atti che testimoniano degli accordi che erano stati realizzati tra l'impresa e la nuova società, e noi pensiamo che quello che va fatto sia sostanzialmente rispettare gli accordi fatti, trovare le forme e le modalità. Noi credo che dobbiamo tutelare le nostre imprese, tutelarle nel momento che fanno interventi nel mondo, anche perché il mercato aperto, la possibilità di avere investimenti internazionali, ad esempio in Italia, io credo sia un fatto positivo. Ad esempio, un dato che non viene mai citato, mentre io lo considero molto importante, nell'anno passato, nel 2016, in Italia gli investimenti internazionali sono aumentati di oltre il 50%. Se vogliamo che l'economia italiana cresca, che le imprese crescano, abbiamo bisogno di investitori, quindi anche di investitori internazionali, però c'è un dato di rispetto reciproco, questo deve valere per noi, deve valere per tutti gli altri paesi, deve valere anche per la Francia, quindi io credo che debba essere sviluppato un confronto molto franco, il quale il nostro governo ha intenzione di far valere posso dire, il rispetto dei patti, perché questo credo che sia una cosa assolutamente normale. E rispondendo all'ascoltatore, ci scrive su WhatsApp, cioè non è che da queste parti si fosse contenti di Macron, semplicemente abbiamo registrato la novità politica che rappresentava. Alcuni sono arrivati ad azzardare che potesse rifondare l'Europa, ci è sempre sembrata un po' eccessiva la cosa, in tutta sincerità, e abbiamo sempre detto, beh, queste sono le dichiarazioni e tutto sommato non ci dispiacciono, lo vedremo alla prova dei fatti. La prova dei fatti, tanto sull'immigrazione quanto su questa vicenda, lascia oggettivamente perplessi. Almeno al momento. Prendiamoci una pausa, va, ci ritroviamo tra un attimo, andremo sui mercati e poi il Venezuela, ci scrive un ascoltatore durante la diretta Facebook, la responsabilità del Venezuela sono delle milizie fasci naziste finanziate dalla CIA. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? A tra poco. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina su Facebook. Vedo che vi dividete sul Venezuela, qualcuno scrive che c'è gente che è ancora ferma agli anni 70 riferendosi al messaggio dell'ascoltatore di poco fa, altri ironizzano sul fatto che insomma la CIA altre volte è intervenuta in paesi sudamericani, ma questo lo sappiamo benissimo. Qua ci sembra una crisi conclamata e derivante da un'incapacità di gestione economica palese, insomma, ecco. Qua non sono le milizie, con l'inflazione al 700% non servono nemmeno gli uomini della CIA, se l'è fatta da solo la crisi Maduro, eh. Le borse dunque oggi purtroppo orfani dei colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore, vi dovrete accontentare di me. La giornata è positiva, come si diceva, dopo l'apertura di Wall Street. C'è Parigi che guadagna lo 0,65%, Francoforte l'1,10%, Milano il FTSE share guadagna mezzo punto percentuale, il FTSE MIB lo 0,6%. Come si diceva, positiva l'America. Il Dow Jones guadagna lo 0,34%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,13%, con il Dow Jones tra l'altro che è a ridosso di quota 22.000 punti. L'ha detto anche il presidente americano Donald Trump, che non si tiene quando si trova su Twitter, evidentemente. Stamattina ha scritto Wall Street potrebbe raggiungere un altro massimo storico oggi con il Dow Jones a 22.000 punti, era 18.000 solo 6 mesi fa il giorno delle elezioni, i media raramente lo ricordano. Per quanto riguarda i singoli titoli, dunque, abbiamo Ferrari che mette a segno un balzo del 4,15%. Qua sono circolate delle ipotesi secondo le quali la stessa Ferrari starebbe pensando a un utility vehicle per raddoppiare gli utili, una sorta di SUV della Ferrari. Vedremo se queste voci sono vere, false. Oggi poi Intesa San Paolo ha diffuso, abbiamo anche positivi, scusate, un po' di utilities, Italgas che guadagna il 2,11%, Terna l'1,62%, Enel l'1,33%, bene Snam che guadagna l'1,3%, Buzzi Unicem l'1,22%, bene Xor che guadagna l'1,19% e complessivamente i bancari, Unicredit più 1,08%, va bene anche Banca Generali che guadagna l'1,07%, Atlanti allo 0,82%, Prismi allo 0,78%, Eni lo 0,75%. Male Tenaris che cede il 2,09%, Male Ferragamo che cede il 2,08%, Unipol l'1,16%, Ubibanca l'1,03%. Intesa San Paolo, che aveva virato in negativo, guadagna alla fine uno 0,14% nella giornata dei conti, ha diffuso i dati nel semestre, utile netto a 1.738 milioni, in linea con i 1.707 dell'anno precedente. Chiarisce intanto l'amministratore delegato Intesa San Paolo Carlo Messina, rispondendo ad una domanda a proposito delle banche venete: dopo le banche venete non mi aspetto di portare avanti nessun altro tipo di acquisizione o fusione, continuiamo ad essere i maggiori leader con la nostra crescita, voglio porre limiti alle mie aspettative, sulle banche venete dice: non voglio porre limiti alle mie aspettative, mi affido allo spirito di rivincita del personale, appunto, delle due banche venete. Per quanto riguarda Unicredit, della quale appunto abbiamo detto e che mette a segno un rialzo dell'1,08%, sappiamo che intende vendere un portafoglio di non performing loans, ossia di sofferenze, di crediti non più esigibili, con un valore nominale di circa 1 miliardo di euro, è quello che scrive Bloomberg, indicando che il pacchetto include prestiti alle piccole e medie imprese. Questo il quadro dai mercati e veniamo al Venezuela. Venezuela, dunque, come si diceva, siamo sull'orlo di una guerra civile dopo l'elezione della nuova assemblea costituente, della quale l'opposizione disconosce la legittimità. Maduro annuncia una stretta contro Parlamento, procuratrice, opposizione e stampa. Roberto Darin del Sole 24 Ore, ciao, buonasera Roberto. Buonasera. Un paese comunque sia, e iniziamo da qua, allo stremo. Sì, è un paese che sta vivendo addirittura una crisi alimentare, perché il Venezuela è un grandissimo produttore di petrolio, è uno dei paesi al mondo con il maggior numero di riserve provate, ma è costretto a esportare quasi solo petrolio e a importare tutto il resto. E in questa situazione emergenziale di guerra civile, sostanzialmente, non arrivano merci. Le imprese italiane, per esempio, non sono più operative, a parte Eni, in Venezuela, e i collegamenti persino fisici con il Venezuela sono praticamente interrotti. Quindi è un paese che vive una situazione di gravità inaudita. Gravità inaudita, con un'inflazione, lo abbiamo raccontato spesso, al 700% e forse la peggiore recessione economica di sempre, no Roberto? Una delle peggiori recessioni economiche, senz'altro. Il prezzo del petrolio, non dimentichiamo che con Chavez, che è morto nel 2013, negli ultimi anni aveva avuto un picco, aveva superato i $100, poi è sceso sotto i $30 e questo ha depotenziato completamente la capacità di reddito del Venezuela. Questa è stata la prima causa. A ciò ne sono seguite altre, ad esempio la cooptazione, la nomina di Chavez di un suo successore, Nicolás Maduro, che si è palesemente dimostrato inadeguato, ha trascinato il paese in una crisi senza fine. Ora è difficile prefigurare una exit strategy e l'occhio è puntato sui militari che fino adesso hanno spalleggiato il governo di Maduro, ma che potrebbero, se la crisi dovesse proseguire con questa contrapposizione frontale tra opposizione e governo, potrebbe addirittura peggiorare, potrebbe rendersi indispensabile un intervento dell'esercito oppure addirittura un golpe a questo punto, insomma, fatti che come dire nei paesi sudamericani abbiamo visto non infrequentemente, diciamo, anche se parecchio tempo fa. Ci ricorda qualche ascoltatore, sì, una crisi alimentare è anche una crisi di farmaci, perché anche quelli sono difficili da reperire e probabilmente anche difficili da comprare, anche se si trovassero, no? È tutto vero. Il vice ministro degli esteri italiano Mario Giro è stato in missione alcune settimane fa e il governo venezuelano ha sostanzialmente rifiutato anche la rifornitura di farmaci che l'Italia avrebbe inviato gratuitamente. Quindi, come dire, c'è una situazione in cui il presidente Nicolás Maduro si è arroccato e non ha più interlocutori. I paesi latinoamericani lo hanno prevalentemente abbandonato, Europa e Stati Uniti non hanno riconosciuto il voto di domenica per l'Assemblea Costituente, che dà un'impostazione dirigista e sempre meno democratica al governo, e gli unici a continuare a mantenere l'appoggio al Venezuela sono Nicaragua, Cuba e Bolivia. Quindi sostanzialmente tre paesi. Oh, ci ricorda anche un ascoltatore che probabilmente ha letto il tuo pezzo di questa mattina sul Sole 24 Ore, dice: Maduro può fare quello che gli pare perché tanto c'è Goldman Sachs che compra titoli venezuelani e quindi in qualche modo lo tutela. Ci spieghi che cos'è questa storia? Questa storia in effetti rende tutto più difficile da interpretare, perché in effetti a fronte di una contrapposizione frontale che la politica ha mostrato nei confronti della presidenza di Maduro, sia quindi, come ripeto, Europa e soprattutto Stati Uniti e altri paesi latinoamericani si sono opposti alla linea politica ed economica di Maduro. Ma paradossalmente una delle più importanti banche d'affari del mondo, Goldman Sachs, ha acquistato 3.4 miliardi di dollari in obbligazioni di PDVSA, che è il gruppo energetico venezuelano, e del paese Venezuela. Quindi di fatto ha dato ossigeno alla vita politica di Maduro. Quindi da una parte la politica ha dato dei messaggi fortissimi contro il governo di Maduro, dall'altro ci sono stati poteri forti economici che per interessi di lungo periodo o per altre trame oscure che non ci è dato conoscere, stanno sostanzialmente rafforzando o dando ossigeno al prosieguo della conduzione presidenziale di Maduro. Il che sperabilmente può anche tranciare le gambe a quel gruppo di complottisti che ci scrive, qualcuno ci dice: chiedi a Soros della crisi del Venezuela e vedrai che cosa ti dirà. Bene, abbiamo Goldman Sachs che fa sempre parte delle teorie del complotto, perché insieme a Bilderberg, Soros e via dicendo è sempre dentro le teorie del complotto, e Rothschild naturalmente, per carità, non dimentichiamoci anche Rothschild. Abbiamo Goldman Sachs che di fatto sta in qualche misura, probabilmente anche con un pensiero di investimento economico futuro, perché sta comprando adesso pensando al fatto che ci sarà un cambio di regime e quindi i titoli si rivaluteranno, però insomma abbiamo sostanzialmente Goldman Sachs che a questo punto sta comprando. E Roberto, quale può essere lo sbocco di questa vicenda al di là di quell'ipotesi che hai dato tu, che di un governo, di un esercito che potrebbe intervenire e potrebbe fare un golpe, fatto del quale al momento ancora segnali non ce ne sono, come ci dicevi, cioè l'esercito è stato piuttosto fedele a Maduro, quale può essere lo sbocco di questa vicenda? Nessuno a oggi vede sbocchi di breve periodo. Potrebbe, butto lì delle ipotesi totalmente plausibili, ma anche no. Quindi se il prezzo del petrolio si impennasse e ciò consentisse a Maduro di incassare proventi petroliferi maggiori, ad esempio, questa potrebbe essere una exit strategy, oppure una questa mediazione papale che tentata tante volte e purtroppo fallita proprio perché Maduro non ha accettato le condizioni che il Vaticano gli ha chiesto di onorare. Se invece a un certo punto questa mediazione, a fronte di una situazione sempre più di emergenza, arrivasse a un punto e convocasse l'opposizione e il governo e diventassero capaci di dialogare, ecco lì si potrebbe aprire un tavolo e si potrebbe pensare di anticipare quelle elezioni che sono previste per il 2018. Quindi questo potrebbe essere un'idea, ma dovrebbe essere affiancata da un passo indietro di Maduro, che finora non ha ceduto praticamente su nulla. E grazie dunque a Roberto Darin del Sole 24 Ore per questo punto sul Venezuela. Ci scrive un ascoltatore che non è una cattiva valutazione per quanto riguarda Goldman Sachs. Dice, beh, hanno comprato sostanzialmente, comprando titoli venezuelani, stanno comprando un'azienda petrolifera, nel senso che appunto il Venezuela, la più grande fonte di introiti del Venezuela è esattamente il petrolio. Dice, quindi quando sarà finita tutta la crisi, dice, si troveranno di fatto in mano il petrolio venezuelano. Non sappiamo se questo sia vero, come già abbiamo avuto modo di dire in altre occasioni, e lo voglio ricordare agli ascoltatori che continuano a parlare della CIA, dell'intervento americano, ma può darsi anche, guardate, non escluderei niente, cioè può darsi anche che ci siano uomini della CIA sul territorio, può darsi anche che ci sia una sorta di come dire, di appoggio alla rivolta. Questo non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. Quello che sappiamo per certo però è che Maduro ha messo in atto una politica economica disastrosa. Vi abbiamo già raccontato il fatto che ci sono paesi che dipendono esclusivamente dal petrolio, esattamente come il Venezuela, e non si capisce come mai riescono a sopravvivere anche quando il petrolio passa da 100 a 30 dollari al barile. Perché? Perché sono un pochino più previdenti, cioè per esempio creano un fondo sovrano, con questo fondo sovrano diversificano gli investimenti, investono in altro che non sia il petrolio. È tutto quello che il Venezuela non ha fatto. E poi quando il petrolio scende a 30 dollari al barile, boom, arriva la mazzata, ed esattamente quello che è successo, una politica poco previdente, molto semplice, ma ci vuole così poco a capirlo, traffico. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presento Focus Economia. Passiamo alle questioni più italiane, ossia il fisco. Il Sole 24 Ore ha anticipato oggi gli obiettivi 2017 dell'Agenzia delle Entrate, fissati nella convenzione che verrà firmata oggi, che è stata firmata oggi con il Ministero dell'Economia. Sono appunto, riguardano il recupero dei soldi, in sostanza il recupero delle tasse. Giovanni Parente del Sole 24 Ore, ciao Giovanni. Ciao, buonasera. Allora, che cosa vuole fare l'Agenzia delle Entrate l'anno prossimo? Che è quest'anno poi in realtà. No, l'obiettivo fissato è di 15,7 miliardi, un obiettivo che non tiene conto del rientro dei capitali, che tra l'altro insomma sarà prorogato postumamente, perché insomma la proroga arriverà dopo la scadenza, in quanto le adesioni finora non sono state quelle che erano preventivate, quindi non servirebbero a raggiungere l'obiettivo di gettito di 1,6 miliardi. Però tiene conto della rottamazione delle cartelle, che ha visto ieri la prima scadenza per il pagamento della prima rata. Insieme a questo, comunque, per accompagnare questo Che segnali stanno arrivando da quel lato, Giovanni? Guarda, poco prima di parlare con voi ne discutevo con alcuni delle nostre sentinelle, dei professionisti, insomma, che parlano con il Sole 24 Ore. Diciamo che in alcuni casi qualche problema è stato avvertito, insomma, non tutti, insomma, gli studi professionali hanno visto i contribuenti che assistevano pagare l'intero importo. Ora, insomma, bisogna vedere poi quando arriverà una stima ufficiale, un dettaglio ufficiale, se questo sentiment verrà poi tradotto in un risultato economico inferiore alle aspettative, oppure se insomma era un campione che però non era completamente rappresentativo della popolazione. Certo, diciamo, per come è stata congegnata, cioè con queste, col massimo di 5 rate pagabili tra il 2017 e il 2018, e quindi, insomma, in alcuni casi gli importi da pagare nonostante lo sconto di sanzioni e interessi potrebbero aver complicato un po', no, l'esborso finanziario delle tasche dei cittadini, delle casse delle imprese. Quindi, insomma, un problema che avevamo già sempre segnalato, appunto, era questo delle scadenze un po' troppo ravvicinate e difficili poi da rispettare, anche sì, perché, insomma, chi non paga poi dopo. Sì, tra l'altro spesso Giovanni, e lo abbiamo visto anche quest'estate, anche pochi giorni fa, scadenze spesso, e questa è una cosa che fa impazzire non solamente i commercialisti ma anche gli imprenditori, anche i cittadini normali, i lavoratori autonomi, scadenze spesso prorogate un giorno prima della scadenza per tra una settimana, magari in mezzo ad agosto, cioè cose da diventare pazzi. Mi sembra, Simone, una cosa, forse, e questo l'abbiamo però sottolineato moltissimo in questi giorni, che quando si parla di fisco in Italia, quando si parla di un rapporto dei contribuenti, al di là dell'Agenzia delle Entrate, ma poi tutto il sistema della macchina fiscale, non possa non riflettere su due aspetti. Uno, la pressione fiscale, che è ovviamente elevata, si dice elevata perché c'è troppa evasione fiscale. Due, però, un sistema che è veramente di un bizantino, di un complicato, anche quando deve concedere una proroga lo fa in maniera complessa, contorta, dimenticandosi alcuni dei contribuenti per strada, facendolo per alcune imposte sì, altre no, quindi obbligandosi a degli slalom tra pagamenti con una certa somma ad altri con la maggiorazione. Quindi è evidente, è un segno evidente di qualcosa che non va, che la strada è molto lunga verso una vera semplificazione, che quindi quel progetto che sta avviando Ernesto Maria Ruffini alla guida dell'Agenzia delle Entrate, con uno snellimento della macchina, con una macchina che è più votata al contribuente finale piuttosto che, insomma, alla burocrazia interna, insomma, dovrà fare molta strada proprio per accorciare le distanze, perché credo che proprio sia un segnale necessario da dare ai contribuenti italiani questo. Sullo sfondo di tutto questo, Giovanni, in tema perché per recuperare l'evasione poi a un certo punto devi anche riscuotere, no? Sullo sfondo di tutto questo c'è questa trasformazione di Equitalia, sulla quale pende in realtà un ricorso pesante che potrebbe addirittura, nell'ipotesi estrema, annullare tutto. Sì, potrebbe bloccare completamente la nascita del nuovo soggetto, che è operativo dal 1 luglio. Il Consiglio di Stato ha rinviato al TAR del Lazio, di fatto chiedendogli di decidere nel più breve tempo possibile. È una situazione che obiettivamente... E si tratta, lo spiego per gli ascoltatori che si fossero messi in ascolto solamente adesso, del fatto che Equitalia era un ente di diritto privato e per entrare in un ente pubblico devi aver fatto un concorso. La semplifico molto: i dipendenti di Equitalia sono dipendenti, appunto, di quella che è sostanzialmente un'azienda privata, e per passare in questo nuovo soggetto dovrebbero teoricamente fare il concorso, almeno questo secondo chi ha fatto ricorso e lo ha presentato alle autorità amministrative. Quindi questo resta in sospeso. Che tempi ci sono da questo lato? Guarda, i tempi di fissazione dell'udienza dovrebbero essere comunque entro l'autunno di quest'anno. Diciamo che tutto questo bailam del ricorso contro ricorso ha proprio in qualche modo accelerato i tempi della decisione. È interesse di tutti che una decisione venga presa nel più breve tempo possibile, anche perché rimanere in stand-by con l'elemento finale della filiera della macchina fiscale, che la discussione è poi quella che poi materialmente recupera i soldi, come si è chiamato giustamente tu, non pagati delle tasse, e insomma avere una spada di Damocle su un soggetto che era appena nato, che doveva cambiare in qualche modo anche in questo caso l'amministrazione fiscale, credo che non sia decisamente un problema. Ti ringrazio, grazie a Giovanni Parente del Sole 24 Ore, a Pietro La Corte in regia, Mauro Del Corno in assistenza e in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Ci si risente domani dopo il GR delle 17. Radio 24, libera la voglia di fare.